Dialogo ventiseiesimo. Raccontò Abdullah bin Amr: un uomo chiese all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la bengloria, cos'è il meglio dell'Islam? Rispose: dar da mangiare a chi ha fame e salutare per primo sia chi conosci che chi non conosci.